败了你。 Ma faccio bello, ma faccio bello bello, ma devo fare talmente bello che alla fine devo sembrare pittato per quando sono bello pittato. Ma faccio bello, ma faccio bello bello, ma faccio così bello, già mi vorrei fermare, ma io so che posso ottenere di più. Faccio così bello perché io già parto da una buona base, perché io già in partenza sono abbastanza bello, ma se mi si faccio, se mi si ostino a farli, si diventa bellissimo, bello. Faccio bello, faccio liscio, più che mi faccio bello faccio liscio, poi uno confonde queste fede, se sta fa bello sta fa solo liscio. Faccio bello, ma talmente bello che alla fine del trattamento, quando esco da casa, la gente quando mi vede impazzire, impazzire la gente. Io li vedo così e penso, ma si stanno a fare belli pure loro, no? Se si vogliono fare belli devono proseguire il movimento, però, perché la pazzia è così vicina alla bellezza. L'avreste mai detto che uno così pazzo diventava così bello? L'avreste mai pensato che uno così bello fino a 5 minuti fa era matto? Insomma, parliamo di lei, che pazzo la vera, non sono abbastanza bello. Vuoi tu, Luciano, prendere per sposa la qui di spalle Luciana, che proprio perché di spalle non si capisce se è Luciana o Luciano? Sì, lo voglio, io da qua la vedo, mi sembra Luciana. Vuoi tu, Luciana di spalle, che proprio perché di spalle potresti benissimo essere Luciano, prendere per sposo il qui di faccia Luciano, che sul fatto che è Luciano non c'è ombra di dubbio? Sì, lo vuoi. Vuoi tu, Luciano di faccia, che prima facevi la parte di Luciano di fronte, prendere per sposo il qui presente Luciano di spalle, che ha debuttato nel difficile ruolo di Luciano da dietro, e non si capiva se era Luciano o Luciano? Sì, lo vuoi, io da qua lo vedo, c'è il baffo, è Luciano. Vuoi tu, Luciano visto da dietro, che prima facevi la parte di Luciana vista di spalle, prendere per sposa la qui presente Luciana di faccia, che hai sortito nel drammatico ruolo di Luciano di fronte? Sì, se ti chiedi il discorso vuoi. Vuoi tu, Luciano visto da dietro, che hai debuttato nel ruolo che ha segnato la critica di Luciano visto davanti? E hai dato anche un contributo al teatro mondiale nella memorabile interpretazione di Luciana di fronte. Prendere per sposa la qui presente di faccia Luciana, che per via dei baffetti sembra più Luciano che Luciana, che ha esordito nel controverso ruolo di Luciana vista da dietro. Questa non lo so, questa non lo so, le altre le ho risposte, questa è troppo tecnica, non riesco a risposta. È troppo specifica. Vuoi tu, Luciano acquattato, prendere per sposa la qui presente Luciana di squincio? Oppure per avere un certificato che sia valido anche a livello anagrafico, vuoi tu, acquattato Luciano, di acquattato Giuseppe Supino Raffaella in acquattato? Prendere per sposa la qui presente di squincio Luciana, di squincio Rodolfo e di fianco Maria in disquincio, che dopo il matrimonio diventerà Luciana di squincio in acquattato, finché morte non vi separi? Spero che arriva subito la morte che ci separa. Vivo con l'illusione che arrivi subito la morte che ci separa. Rivolgiamo i nostri cuori al Signore. Alti, alti voi, alti. Alti verso il Signore, alti verso il Signore i cuori, più alti i cuori verso il Signore, alti verso il Signore i cuori, fino a sentire che tira tutta la scapola, i cuori alti verso il Signore, alti verso il Signore, giù, respirate, respirate. Respira, cosa vuoi tu, le cose vuoi. Ancora i cuori verso il Signore, alti verso il Signore, alti, alti, fino a sentire che tira tutta la cervicale. Portare la cervicale al Signore prima dei indietro. E cosa buona e giusta? Veramente cosa buona e giusta? Portare la cervicale al Signore e chiedere al Signore con delicatezza, chiaramente, ma perché mi ha fatto venire la cervicale? Seduti, in piedi, seduti, in piedi, in piedi, in piedi, a sorpresa seduti, seduti, chi l'avrebbe mai detto in piedi, seduti, in piedi, ma soprattutto cercate anche voi di avere uno straccio di personalità. In piedi, dalla seduti, prima in piedi, lettera seduti, dite in piedi, San Paolo seduti, apostolo seduto ai Corinzi. In quel tempo San Paolo stava seduto e i Corinzi stavano in piedi. È parola di Dio, non mi sembra un tanta scoperta. In piedi, seduti, dalla seduti, seconda in piedi, lettera seduti, di in piedi, San seduti, Paolo in piedi, apostolo in piedi, ai seduti, Corinzi seduti. I Corinzi seduti e pure voi seduti. In quel tempo San Paolo si era alzato e i Corinzi si erano seduti. Salmo responsoriale, ripetiamo in piedi, o stai in piedi o stai seduto. Dal seduti Vangelo in piedi, secondo seduti Matteo seduto, ai in piedi, farisei in piedi. In quel tempo Matteo era l'unico che stava seduto e i farisei stavano tutti in piedi. Che cosa ci ha voluto dire Dio con questa intrigante cazzatella? Che per pochissimo non si è verificato il miracolo che stavano tutti in piedi. Bastava che Matteo si alzava, ci stavamo quasi, ci stavamo quasi. E per tantissimo non si è verificato il miracolo che stavano tutti seduti, perché si dovevano sedere tutti i farisei. Ma poi subentra il mistero della fede, e se mentre i farisei si sedevano, Matteo per distretto s'alzava! E parola di Dio.